tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è l'ultimo martedì di stagione, poi ci saranno quelli dei mondiali, ma insomma diciamo che è l'ultimo martedì dopo campionato e coppe, quindi non può che essere dedicato all'ultima puntata stagionale dell'appuntamento con il calcio internazionale, col ministro degli esteri Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Presente, buongiorno buongiorno a tutti. Presente, senti, io oggi dedicherei una buona parte della nostra conversazione a Diego Milito, perché credo che insomma, se l'Inter ha vinto questi tre titoli consecutivi nel giro di quanto? 10 giorni mi pare, poi alla fine. Di fatto sì, perché è stata la Coppa Italia, certo. Sì, sostanzialmente 10. Insomma, intanto li ha firmati lui in esclusiva tutti e tre, perché è suo il gol straordinario di Roma, è suo il gol magnifico di Siena e sono suoi i gol, sarei tentato di dire eccezionali, del Bernabeu. Ma Milito è l'uomo del giorno anche per un'altra ragione. Leggo da Fabio Monti, che firma stamane questo servizio sull'Inter sul Corriere della Sera e che continua a ritenere il Vangelo per quanto riguarda casa Inter. Leggo queste parole. Le parole pronunciate da Diego Milito sul prato del Bernabeu a partita finita, prima ancora di alzare la coppa, stanno diventando un caso serio. La società non ha gradito per tre motivi. Il primo, si sarebbe potuto aspettare un giorno per parlare di soldi. Averlo fatto in un momento che gli interisti aspettavano da tanto tempo non è stato il massimo dell'eleganza. Secondo, Milito è il primo a sapere che era già stata decisa la revisione economica del contratto, che scade peraltro nel 2013 e non è male per un giocatore bravissimo, ma che il 12 giugno compirà 31 anni. Il terzo, far passare il messaggio che l'Inter non è disposta a riconoscere quanto merita un attaccante capace di segnare 30 gol è una trovata che Moratti non ha metabolizzato. Non si fa così, fermo restando che 30 gol nella stagione sono un'impresa. E, insomma, c'è qualche fermento e ho l'impressione che si stia preparando se non un braccio di ferro, comunque un rapporto destinato a guastarsi ancora un po' di più tra l'Inter e Mourinho, perché le trattative che il Real ha in animo di aprire con l'Inter, partendo dalla base della penale che il Real dovrà all'Inter per liberare Mourinho, ho l'impressione che siano destinate a degenerare. È possibile per il tuo? Facciamo un passo indietro, anche perché io sono stato testimone oculare, ma non presente sul campo a Madrid, dell'intervista di Diego Milito, e lui ha detto questa cosa: ho un'offerta importante. Sono d'accordo con l'Inter in questo caso, nel senso che è stato abbastanza sgradevole e molto sorprendente per noi. Come per tutti, credo, certo. In primis i tifosi dell'Inter, ma noi stessi che conosciamo Milito come una persona misurata. Un sobbalzo l'avete fatto, no, mi pare? Francamente sì. Perché tra l'altro anche la domanda, onestamente io non avrei nemmeno pensato di porgliela, perché davo totalmente per scontato che Milito fosse confermatissimo e lui stesso fosse felice. Comunque la domanda è stata fatta e questa risposta ha dato un po' di vibrazioni. Devo anche dire, essendo stato invece partecipe di persona alla festa a San Siro, che poi questa domanda gliel'abbiamo rifatta e Milito ha risposto in una maniera completamente diversa, cioè gli abbiamo chiesto resti al 100% l'anno prossimo, pensando che lui non dicesse di sì, e invece lui ha detto sì, resto al 100%, anche perché ho ancora 3 anni di contratto. Poi parlandone di persona con i nostri inviati, tutti mi hanno fatto capire, mi hanno sostanzialmente detto che qualcosa è successo nel viaggio di ritorno, cioè che quell'intervista è arrivata, è arrivata in società e dalla società, ma anche al procuratore stesso, e gli ha consigliato maggiore prudenza, gli ha consigliato di tenere un atteggiamento molto diverso. Sostanzialmente i dati sono tre. Il primo è che Moratti deve monetizzare al massimo l'uscita di Mourinho. Sì. E questo mi pare sia un Moratti che questi soldi li voglia. Sì. Cioè non è più il Moratti di qualche anno fa, magnanimo. Rimane certamente un signore, ma attenzione a non esagerare. Sì. Se facciamo anche due conti, ma sono veramente i conti della serva, se è vero che Mourinho ha un ingaggio di 8 milioni di euro all'anno, netti, vuol dire che ne ha presi 16 in 2 anni. Se Moratti di clausola di rescissione ne recupera 16, al netto dei contributi può sempre raccontare di aver avuto Mourinho gratis, e non questa mi non sembra è male. Un fortissimo colpo. Il secondo dato è che ballano 3 milioni di euro che l'Inter dovrebbe riconoscere al Real Madrid per Wesley Sneijder. Quindi io penso che si inizierà, è già in corso, magari l'hanno già anche definita, una super trattativa sulla base di questi parametri, ben sapendo che Mourinho un po' di spesa la vuol fare, nel senso che 2-3 dall'Inter lui vorrebbe portarseli. Questa chiave di lettura del, no, del, come dire, del rimborso, della clausola, della penale rescissoria, che in pratica azzererebbe o comunque ridurrebbe all'osso veramente il compenso di Mourinho per questi 2 anni col lavoro che oggettivamente ha fatto, non è male, sinceramente non è male. Dunque fin qui siamo arrivati. Adesso, anche se poi ti dovrò interrompere magari anche a metà per ragioni di traffico, come sai, io adesso comunque celebrerei a mente fredda questo, le prodezze di questo giocatore, e tutto sommato ti chiederei aiuto per ricostruirne una carriera che, insomma, uno che fa quei 4 gol lì, ma in particolare i 2 della finale, cioè nell'occasione più importante della finale di Madrid, e che tutto sommato è già arrivato a 31 anni e ha avuto, per carità, ha avuto la sua visibilità prima e ha fatto delle buone stagioni, ma mai a questo livello, non dico sia un mistero, ma in ogni caso una curiosità la è. Avevo introdotto il discorso della carriera di Milito, vogliamo riassumerla? Milito arriva in Italia molto tardi, sostanzialmente tardi, perché aveva già superato i 25 anni ed è arrivato in una squadra che in quel momento ha fatto una scommessa su di lui, ma sostanzialmente quasi nessuno era ferratissimo su Diego Milito, perché aveva comunque una militanza nemmeno di primissimo piano nel campionato argentino. Devo anche dirti che Milito non è stato fortunatissimo, perché nel momento in cui ha avuto un grande impatto, comunque un buon impatto sul campionato italiano, e ha deciso di andare via in Spagna, anche forse per una questione economica, ha scelto la squadra sbagliata, perché è andato a Saragozza ed è pure retrocesso. Quindi francamente nessuno si aspettava che Milito avesse un colpo di coda del genere. Non è molto cambiato, cioè Milito gioca adesso come giocava prima. Credo che, anzi sono abbastanza certo che quando giochi con Snyder, quando giochi con un centrocampo forte come quello dell'Inter, poi i palloni arrivino più puliti e i palloni arrivino giusti. I movimenti magari tu li fai uguali, ma dipende sempre chi è che li vede e chi è che deve passarti il pallone. Di fatto Milito è stato sempre trascurato dai selezionatori della nazionale. Milito ha la sfortuna, tra virgolette, sfortuna di essere nato in un paese che calcisticamente negli ultimi anni ha espresso a livello individuale dei giocatori straordinari in attacco, e quindi sì, è giusto criticare Maradona perché non l'ha quasi mai chiamato, lo ha abbastanza ignorato, lui ha una ventina di gettoni in nazionale, ma anche detto che non, a parte il caso di Martin Palermo, comunque l'Argentina ha una batteria di attaccanti davvero straordinaria. Sì. Lui è un centravanti vero, verissimo, credo che sia uno degli attaccanti più chiari come costruzione, cioè che possa fare sostanzialmente quello, mentre Eto'o è riuscito a riciclarsi o a comunque avere un posto anche da laterale. Io penso che Milito difficilmente possa giocare in una posizione diversa. La grandezza di Milito di quest'anno non sono solo i gol, ma sono anche il fatto che quando Mourinho ha deciso di giocare così non ha avuto un dubbio, cioè non ha detto metto Eto'o in quella posizione e Milito dall'altra parte, perché Milito probabilmente in quel ruolo non sarebbe riuscito a fare granché, mentre invece è stato preferito a Eto'o come ruolo di prima punta e si è messo sulle spalle il compito di fare dei gol, e questo io credo che ne tracci, ne sottolinei davvero la grandezza. Non so se Milito continuerà, però credo che, insomma, questa sia una stagione che abbia pochi paragoni. Beh, la chiave di volta nella carriera di Milito è certamente il Genoa, perché segna 33 gol in B in 2 stagioni, che sono pochi oggettivamente per uno come lui, però dimostra la sua qualità. Poi quando il Genoa ha la disavventura della retrocessione a tavolino, parte e va a Saragozza, come tu hai ricordato, ma quando rientra il Genoa continua a crederci, e non appena ha un'occasione di giocare un campionato di A, cioè nel 2008-2009, lo riprende, e Milito lo ripaga il Genoa con 24 gol in quel campionato, che sono quelli di quest'anno, praticamente sono quelli che poi gli spalancano questo decollo di carriera. Maradona ha già detto che non avrà per questo il posto fisso, il posto sicuro, ha ricordato che tra Higuaín, Tevez, Agüero e Messi, insomma, di attaccanti bravi ne ha. Credo però che il Milito chirurgico visto in questo finale di stagione, ma soprattutto quello di Barcellona, quello di Madrid, che ha Così per una piccola rivisitazione, no? A distanza di 3 giorni, è quello che comunque ha cambiato, ha spaccato la partita, perché fino a quel momento c'era un discreto equilibrio, c'era anche insomma poco di divertente, e c'era semmai una prevalenza territoriale del Bayern, sterile ma c'era. Sì, tra l'altro il gol è nato da un'azione che non si può provare in allenamento, cioè da un rinvio lungo del portiere che ha scavalcato il centrocampo. E tra l'altro Milito va a prendere l'assist, ma è lui che apre il triangolo, perché è lui che controlla quel la sua sponda di testa per il destro di Schneider. È qualcosa di storico, a parer mio. Io trovo che ci siano due cose straordinarie che credo siano il quadro della stagione: questa azione dell'Inter, perché è l'azione della semplicità del calcio, cioè l'azione che esemplifica come non servano a volte, o comunque non siano la componente principale, le costruzioni chimiche degli allenatori, e la seconda è il gol di Eto'o a Stamford Bridge, cioè il controllo di palla che ha Eto'o prima ancora del tiro, ma il controllo di palla che gli permette di prendere velocità, credo siano una di quelle cose che andrebbero prese e messe su un CD, CD-ROM, fatte vedere a tutti i bambini che imparano a giocare a calcio. Cioè, sono due fotogrammi secondo me indelebili della stagione dell'Inter, uniti anche, penso anche alla parata di Julio César all'inizio del secondo tempo su Müller, perché quella è una parata che forse in molti hanno dimenticato, ma io, secondo me vale un gol, perché Müller era lanciato e aveva la porta spalancata, e al ventesimo Cesar spiazzato è riuscito a pararla, e prendere il pari al 20° secondo della ripresa avrebbe veramente cambiato tutto. È credibile a parer tuo, e poi ti lascio alle bimbe, è credibile a parer tuo che il Milan, come scrive stamane Sport, cioè il quotidiano sportivo catalano, sia disposto a offrire 80 milioni di euro per Ibrahimovic? Secondo me no. Secondo me no. È quello che sogna Sport ed eventualmente il Barcellona. No, ma guarda, io credo che 80 milioni di euro in questo momento ci possano essere uno o due giocatori per i quali si possa fare una follia del genere. È chiaro, non dimentichiamoci che Ibrahimovic è uno che ogni volta che inizia un campionato lui lo finisce vincendolo, però penso anche che al Milan possa, cioè non basta Ibrahimovic, nel senso che non puoi pensare di spendere quella cifra, anche perché non ne avrai più. Se il Milan spende 80 milioni di euro vuol dire che ha già venduto almeno due giocatori pesanti e importanti, vuol dire che allora vende Pato, e sostanzialmente no, cioè credo che intanto non sia il prezzo di Ibrahimovic in questo momento, e che il Milan non abbia idea di spendere 80 milioni di euro per un giocatore, ma per nessun giocatore, quindi no. La risposta è uno sdegnato no. Uno sdegnato no. Molto meno sdegnato sarà sarà la ripresa dei nostri contatti, ma in questo caso non più settimanali bensì quotidiani, tra un paio di settimane, quando nel frattempo sarai arrivato in Sudafrica. Sì, io parto il 5, quindi sarò lì con largo anticipo, e diciamo che il 6 è domenica, diciamo dal 7 in poi, tu ricominci il 7 credo, certo. Che si possa sentire serenamente tutti i giorni quando lo riterrai opportuno. Io farò un po' credo d'ambiente i primi giorni, starò a Johannesburg fino alla fine del mondiale, quindi avrò un po' sotto controllo più o meno tutto, insomma giocherà una partita a Johannesburg anche la nazionale di Marcello Lippi, quindi avrò anche il piacere di vederli in campo, e poi andremo come sempre dove deciderai tu, Gigi, io sono a disposizione. Sì, certo, il ministro. A presto. Per una volta all'estero, insomma. Certo, il ministro all'estero con tanto di credenziali. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie, io tornerei in argomento Italia, anzi debutterei forse, sarebbe più corretto dire in argomento Italia, perché ieri c'è stata questa lunga conversazione di Cannavaro, e io sentirei in particolare il terzo frammento che abbiamo selezionato, che è quello in cui parla della sua situazione contrattuale. Sentiamo. Sono ancora sotto contratto della Juve, ancora niente, perché comunque, come abbiamo visto in questi giorni, la società sta cambiando, non solo a livello tecnico, ma sta cambiando un po' di cose. In questo momento parlare di contratto sarebbe stato poco intelligente da parte di tutti, vediamo in futuro. E in questo momento penso che Marotta ha altri problemi più grandi del mio futuro, quindi sono molto sereno e tranquillo, vedremo da qui in avanti, ma ripeto, io sono molto tranquillo e sereno. molto tranquillo, sereno, ma senza contratto attualmente, e che è una situazione paradossale. Perché? Perché duplica, ripete, quella del commissario tecnico, nel senso che il noi abbiamo una nazionale che sta partendo, che attualmente è a Sestriere in ritiro, ma che andrà in Sudafrica con un commissario tecnico in uscita, perché entro l'8 giugno verrà comunicato il nome del successore, o meglio verrà ufficializzato il nome di Prandelli, si vedrà con chi, si vedrà in che compagnia, questo mi pare sia rimasto l'ultimo dettaglio da definire. E quindi insomma, commissario tecnico e capitano andranno in Sudafrica, adesso non dico disoccupati perché credo che il rispetto della parola disoccupazione vada coltivato sempre, ma in ogni caso diciamo pure senza contratto, ed è una situazione inedita perlomeno per la nazionale italiana. Da Milano Mario, buongiorno. Garantini, buongiorno. Dica. Ho il piacere di aprire un siparietto con lei. L'ho mandato una mail qualche giorno fa e adesso che si è tutto concluso è ancora più accattivante. E lei mi ha risposto: non ti rispondo perché non ci ho capito niente. Io avevo solo detto, sono un giornalista anche se di stampa tecnica, per cui fratello inferiore vostro, e vi dicevo, all'Inter questi 10 giorni c'erano in ballo 3 titoli. Questo assalto dei media, che non hanno lasciato tranquilla la squadra, ma queste continue, va via, e sta qui, è il giocatore, ha ricevuto un'offerta, eccetera, e le chiedevo, da parte dei media, con tutto il diritto di informazione eccetera, lasciarla un po' più tranquilla, anche perché era l'unica squadra italiana rimasta in vista, tra l'altro. Invece c'è stato un attacco mediatico da tutte le parti, dalla Coppa Italia allo Scudetto fino a sabato scorso, e le chiedevo, secondo lei un po' di profilo basso da parte dei media non era il caso di tenerlo? Grazie Garanzini. Io quando sento questi concetti veramente inorridisco. Penso, non so, giusto per provare a rispondere, io penso a RCS quotidiani, no? Pensiamo, quindi RCS quotidiani, mettiamoci pure la Gazzetta dello Sport, che così ci capiamo meglio. Quante pagine ha dedicato la Gazzetta dello Sport in questi giorni di vigilia e poi di celebrazione all'Inter? Lei lo sa che RCS, e quindi Gazzetta dello Sport indirettamente, si occupa della promozione dell'immagine dell'Inter? Le è chiaro il concetto che se per caso avesse tutto questo, come dire, tutta questa attenzione mediatica avesse nuociuto all'Inter, forse chi dell'Inter se ne occupa anche da un punto di vista professionale si sarebbe, come dire, astenuto o sarebbe stato più sobrio? E soprattutto, lei pensa davvero che se una squadra, qualunque essa sia, va in finale di Coppa dei Campioni, l'attenzione mediatica si debba smorzare per assecondarne la vigilia? Io ogni tanto mi domando veramente in che mondo viviamo. Se poi lei invece vuol parlare delle turbative che possono esserci state per esempio per le voci sulla partenza di Mourinho, adesso lei mi dovrebbe dire se la colpa, facciamo così, la responsabilità, non parliamo di colpe, se la responsabilità è nostra che abbiamo riferito che Mourinho sarebbe andato al Real Madrid in qualsiasi caso, o di Mourinho che era al Madrid, che con Real Madrid trattava mentre stava preparando la finale dell'Inter. Mi faccia sapere, fermo restando che in un momento in cui si sta cercando di mettere il bavaglio all'informazione in Italia, questa telefonata mi sembra particolarmente significativa. Sandro Tessanin scrive da Rovigo, dice: mi sbaglio, la trasmissione dura sempre meno? Sì, di netto dura sempre un po' meno perché c'è molta pubblicità. Si può fare qualcosa? Domanda ancora Sandro, che non è l'unico tra l'altro a scrivere queste cose. Dico sì, sì. Si può fare qualcosa? Sì, si può ringraziare che ci sia tanta pubblicità, perché vuol dire che questo è un segno di salute per la testata, ed è anche un segno di apprezzamento per il programma, evidentemente, perché gli investitori, insomma, i loro quattrini cercano, perlomeno dal loro punto di vista, di destinarli al meglio. Ho letto la lista dei convocati per la nazionale argentina, scrive Roberto Mascetti da Inveruno. Domanda da incompetente: ma Verón è tanto meglio di Cambiasso? No, Verón è molto peggio di Cambiasso, se è per quello. Giocano in ruoli diversi, Verón ha un ruolo di maggiore costruzione, però Verón è, non dico un trapassato, ma quasi, insomma, io credo che era in età pensionabile quando se n'era andato dall'Italia dopo grandi stagioni, intendiamoci. Io credo che rinunciare oggi a un giocatore come Cambiasso sia una scelta del tutto incomprensibile. Tocca ad Alessandro, provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, su Veron mi permetto di correggerla, è trapassato remoto, era già proprio era già esausto quando se n'è andato dall'Italia. Volevo dire due piccole cose sull'Inter, io sono un simpatizzante dell'Inter. Concordo totalmente con lei, la cosa per lei è preoccupante essere d'accordo con me su Mourinho, perché è un ottimo allenatore, ma un uomo piccolissimo, minuscolo, che ha trovato delle scuse patetiche per andare via dall'Italia. E poi, se posso, vorrei dare un sommesso consiglio ai tifosi dell'Inter e anche al presidente Moratti: non innamorarsi dei calciatori in maniera assoluta, né dell'allenatore. L'unico insostituibile è il presidente, quello che mette i denari. Finché c'è lui e qualcuno che capisce di pallone e acquista i giocatori adeguati, se va via Milito se ne prende un altro, Milito è bravissimo peraltro, se va via Mourinho se ne prende un altro. Mai innamorarsi dei giocatori, perché le squadre e i tifosi che si sono innamorati dei giocatori hanno fatto la fine dei popoli che avevano bisogno degli eroi, una fine abbastanza misera. La ringrazio e la saluto. Ah, sono io a ringraziare lei, Alessandro. Senta questa di Moratti di stamattina, che secondo me racconta bene il presidente meglio di mille altre, meglio di mille interviste, insomma. Stamattina era al Pirellone a Milano, cioè nella sede della regione, per ricevere il riconoscimento per la vittoria in Coppa Campioni. Il governatore lombardo Formigoni aveva ringraziato l'Inter per i successi e per aver dato visibilità a livello internazionale alla città. Lui prima ha risposto ufficialmente dicendo di essere contento di aver contribuito a dar lustro a Milano in un momento di crisi, ma poi però ha avuto uno dei suoi sfoghi in libertà e ha detto: appena mi renderò conto davvero di quello che è successo, sarò il primo a correre per la città con la bandiera in mano. Questo è Massimo Moratti, questo è un tifoso innamorato dell'Inter, che non sempre riesce o è riuscito negli anni passati soprattutto a essere razionale per un eccesso di tifo. Mentre invece contemporaneamente Mourinho è andato ad Appiano Gentile, leggo dall'Ansa, non per allenare ma per recuperare le sue cose, svuotare il suo ufficio, salutare tutte le persone che lavorano nel centro sportivo nerazzurro. Era in partenza per Madrid dopo la cena di ieri sera in casa Moratti, e quindi, informa l'Ansa, ha compiuto stamattina per l'ultima volta il tragitto dalle colline di Como, da casa sua, fino al centro sportivo, ed è rimasto appena il tempo necessario a recuperare il suo materiale di lavoro. Mauro, provincia di Venezia. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Dunque, io sono un tifoso juventino, quindi parlo da neutrale, diciamo, sulle considerazioni di Milito. Secondo me, se andiamo ad analizzare bene quello che è successo nella campagna acquisti precedente, cioè il fatto che si è fatto lo scambio Ibrahimovic con Eto'o, diciamo che Milito è stato messo un po' in seconda riga, cioè non come l'attore principale dell'attacco interista. E quindi diciamo che si è preso un po' la rivincita per il fatto che era stato vero. Non tanto, diciamo, classificato come un gran attaccante, e dopo con i fatti ha dimostrato di quello che vale. Verissimo, è una buona osservazione questa, indubbiamente. Citavo prima il presidente della Regione Lombardia, Formigoni, ieri che mi pare risponda, questa è un'assa appena uscita, in maniera molto polemica al sindaco di Milano, Moratti, che non è quello di prima, ma è la signora Moratti, che ha eccepito sul fatto che i luoghi, cioè la piazza del Duomo di Milano, sia stata utilizzata in maniera impropria, e ha fatto un'osservazione giusta. Bisogna che ciò non accada più, ha detto Formigoni a proposito dei festeggiamenti in piazza per la vittoria dell'Inter. È chiaro che pensare che la gente si possa radunare in piazza è pensare in maniera giusta, ma è altrettanto chiaro che bisogna avere rispetto per i luoghi. Piazza del Duomo a Milano è un luogo di altissimo valore simbolico, e purtroppo questo rispetto non c'è stato. Tocca ad Antonio, che chiama da Como. Buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, e complimenti per come affrontate lo sport. E volevo dire solo che secondo me Moratti questa volta dentro di lui ha detto: non tutti i mali vengono per nuocere, vai pure che non c'è problema. Questa è la forza, secondo me, adesso dell'Inter e del presidente. E in più penso che abbia recuperato anche Balotelli, così. Cosa ne pensa? Voglio essere illuminato, grazie. io guardi che non ho lampadine di alcun genere. Beh, per Balotelli certo che la partenza di Mourinho è un segnale positivo, anzi è una liberazione palese, su questo non c'è alcun dubbio. Poi sarà la società a dover valutare certi comportamenti di Balotelli quest'anno e a trarre delle conseguenze, ma insomma io ho la netta sensazione che se parliamo di quello resterà. Io penso che non tutti i mali vengano per nuocere, ma non soltanto in questo caso, in generale nel calcio. E penso anche che che più una squadra ha vinto e più abbia bisogno di rinnovarsi. E dato che quest'anno l'Inter ha vinto non tanto ma tutto, la necessità di cambiare qualcosa ci sarebbe stata comunque anche senza questa partenza che insomma qualche connotato traumatico comunque l'ha avuto. Secondo me ci sono anche dei ritorni che possono causare dei traumi, perché quando vedo che la Roma ha praticamente preso Adriano, io sinceramente mi domando perché uno i guai se li debba andare a fabbricare ad ogni costo. Questo con tutto rispetto per Adriano, con tutta la validità di un progetto teorico, perché un uomo del peso di Adriano al centro dell'attacco della Roma, in alternativa a Totti, no, le cui condizioni di salute sono salute atletica, intendo, sono precarie, va bene, però insomma l'idea che un giocatore che, per carità, in Brasile è tornato a galla da un punto di vista umano, da un punto di vista di vita, però con qualche ricaduta, ok, l'idea di riportarlo in Italia, di portarlo in una città che, se ce n'è una tentacolare, per usare un'espressione un po' fanè, certamente quella è Roma, io credo che ogni tanto i guai, ripeto, se uno se li va a fabbricare con le proprie mani, insomma. Paolo Treviso, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, complimenti ancora. Volevo intervenire, beh, chiaramente sono tifoso interista, quindi sono al settimo cielo in questo momento. Però non dimentichiamo qualche sassolino che abbiamo nella scarpa. Uno è Ibrahimovic, ce lo siamo tolto in semifinale, ma l'altro un po' più indietro nel tempo è Cannavaro, sicuramente, che quando venne all'Inter non fece una gran bella figura. Per cui sinceramente quello che dice oggi, a parte non impietosire per i discorsi che ci sono riguardanti crisi e disoccupazione, ma anche per il suo passato, in quel caso sicuramente non cristallino, proprio per quell'occasione. Grazie, l'ascolto alla radio. Io ascolto Alessandro da Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione, sempre puntuale e attenta. Voglio fare un'osservazione per quanto riguarda la politica, che ultimamente, forse anche con la mia esperienza da ex calciatore, sto vedendo nelle squadre di club di alto livello e anche nazionale. C'è una politica dove non si tiene in considerazione a sufficienza forse il settore giovanile. Con mancanza, si è visto anche ultimamente, vabbè, all'Inter è esempio emblematico con tutti gli stranieri, però neanche pochi giovani che c'erano, tipo Santono, altri si sono un po' persi per strada, Balotelli, Versi, anche altre persone, e anche soprattutto le altre squadre di club, dove non c'è una politica, secondo me, come c'era nel passato, di attenzione, di sviluppo del settore giovanile, di utilizzo di quelle che sono le potenzialità del settore giovanile delle squadre. Lo stesso si ripercuote poi in nazionale con la rievocazione di tutte persone di una certa età, che ovviamente sicuramente valide, però non hanno quella brillantezza, quelle caratteristiche che ovviamente i giovani interessanti che potrebbero esserci nel nostro campionato potrebbero portare al nazionale. Beh, questo sì, tutta una politica calcistica in generale e una politica giovanile in particolare andrebbe completamente ripensata. Io credo che proprio anche per questo, no, la presenza di Balotelli in questa nazionale avrebbe avuto tanti ma tanti significati, ma al di là dei significati, perché non si va ai mondiali per lanciare dei messaggi, si va ai mondiali per giocare e provare ad arrivare più lontano possibile, possibilmente a vincerli. Io credo che più vedo questa nazionale triste com'è e più penso che il talento di quel ragazzo sarebbe servito. Ripassiamo la storia, questa giornata del 25 maggio affidata a Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 maggio 1924. È vittorioso l'esordio della nazionale di Vittorio Pozzo alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri si impongono per 1-0 sulla Spagna e riescono così per la prima volta, al terzo tentativo, a superare il portiere più forte dell'epoca, il catalano Ricardo Zamora, beffato a 6 minuti dalla fine da una deviazione del suo difensore Vaiana. Malgrado la partenza incoraggiante, l'avventura olimpica dell'Italia si fermerà però a livello dei quarti di finale, nei quali gli azzurri saranno sconfitti per 2-1 dalla Svizzera. A proposito di Svizzera, il Bellinzona che è rimasto in Serie A dopo l'andata, vi ho raccontato nei giorni scorsi, no, di questo curioso derby Lugano-Bellinzona. Il Bellinzona ha vinto 2-1 nel recupero l'andata, ieri è finita 0-0 Lugano con un palo del Lugano a tempo scaduto, raccontano le cronache, quindi insomma diciamo che a Lugano proprio ha detto male e tocca alla più piccola delle due cittadine ticinesi, delle due città ticinesi, restare in Serie A. Ho sott'occhio una mail che spero che almeno a qualche ascoltatore farà una buona impressione, a molti purtroppo parrà patetica. Avrei da fare una proposta, scrive Daniele Viviani, da sottoporre ai dirigenti del calcio. In una riunione, invece di parlare di diritti TV e spartizioni di quattrini, decidono una volta per tutte di chiudere la partita dal punto di vista sportivo di Calciopoli, con la rinuncia a ogni ulteriore azione che non porterebbe altro che inasprimenti che possono fomentare ulteriori istinti animaleschi da parte dei pseudotifosi. Pertanto la Juventus rinuncia a ogni azione e accetti quello che ha già pagato. L'Inter riconosca che alcuni comportamenti dei suoi dirigenti non sono stati esemplari e se vuole e se può rinunci soprattutto allo scudetto a tavolino. E poi tutti insieme decidano di ripartire con un clima più sereno nell'interesse dei veri valori dello sport. Vivo in un mondo utopico a proporre queste cose, si domanda Daniele Viviani. Lei vive sulla Luna, caro Daniele, non in un mondo utopico, vive molto molto più lontano, purtroppo. Rispetto ad un mondo utopico. Giuliano ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, a parte i complimenti per la trasmissione, ecco, io non so se qualche ascoltatore prima avesse messo in evidenza il galantuomo che è il presidente Moratti. Credo che sia uno dei migliori dirigenti che ci sono nell'ambito così del calcio italiano. Poi non era scontato, secondo me, che Mourinho avesse questo successo che ha avuto, perché il campionato italiano è una realtà talmente, diciamo, tra virgolette, locale, che io sono rimasto sorpreso dei risultati. Però alla luce di quello del passato io credo fosse un po' difficile dire che effettivamente avesse potuto avere questi risultati qua. E dell'Inter posso dire personalmente che io sono juventino e mi è piaciuto immensamente il carattere e la plasticità con cui ha affrontato tutte le partite, in maniera da attaccare, in maniera da difendere. È stata una gran squadra per me. Basta, ho finito. Grazie Giuliano. Dunque, Abete, dichiarazione di Abete, c'è stata un'accelerazione negli ultimi tempi e sta parlando di contratto, insomma sta parlando di assunzione in un nuovo commissario tecnico. Stiamo lavorando con l'auspicio che ci eravamo prefissati comunicare la nuova guida tecnica azzurra prima della partenza dell'8 giugno, quindi è confermato che l'Italia partirà per il Sudafrica al comando di Marcello Lippi, avendo già annunciato chi prenderà, in ogni caso, in qualunque esito sia quello del Mondiale, chi prenderà il posto per l'appunto dello stesso Lippi. Fabio è in linea da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie, l'ascolto sempre. Io volevo intervenire sul Milan, su questa notizia che passa stamattina sulla Gazzetta dello Sport, del possibile ingresso di Gazprom al 30% nel Milan, se è fantascienza o se c'è qualcosa di vero, e se l'ingresso di Gazprom nel Milan può portare come allenatore al Milan Spalletti. Non ho la minima idea. Non ho la minima idea, intanto, se davvero esista questa trattativa, che è già stata comunque ampiamente smentita da Fininvest in questa mattinata stessa, tantomeno la liaison con l'eventuale arrivo di Spalletti, che comunque mi pare sotto contratto con lo Zenit di San Pietroburgo, mi pare anche sia primo in classifica, ha un contratto triennale, il campionato in Russia è in pieno svolgimento, non credo proprio che un primo in classifica che ha appena fatto una scelta di vita pianti tutto per venire al Milan, nel caso il Milan fosse o venisse rilevato al 30% da questa società. Sono giorni di voci questi, in cui poi, per carità, qualcosa di vero ogni tanto salta anche fuori, però bisogna sempre distinguere un po' il grano dall'olio. Per esempio, leggo che l'Arsenal ha fissato il prezzo per Fabregas e l'ha fissato a 93 milioni di euro. Ora, con tutto rispetto per Fabregas, che è un grande giocatore, il Barcellona ha ribattuto che è disposto a spenderne 40, ma insomma, se si parte da qua, cioè tra 40 e 93 c'è una discreta forbice. Ora, a me sembrano tanti 40, onestamente, con tutto rispetto per Fabregas, perché stiamo sempre parlando di milioni di euro, forse ogni tanto perdiamo di vista la dimensione, ma 93. Alessandro, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. No, ma intanto con Xavi e Iniesta non so neanche Fabregas dove lo metterebbero a questo punto. Beh, insomma, io penso che il posto glielo trovano. Comunque io vorrei andare un po' controcorrente, io vorrei far scendere un po' sulla terra i Mourinhiani, nel senso che secondo il mio modesto punto di vista, quando hai la fortuna di trovare papà Moratti che si innamora di te, ti mette a disposizione delle centinaia di miliardi per farti uno squadrone, la fortuna che Ibrahimovic vuole andarsene e automaticamente arrivano tutta una serie di campioni, compreso un Diego Milito che ti risolve tutte le partite decisive, secondo me a questo punto penso che sia molto più facile per un allenatore, lo vorrei vedere allenare, non so, il Bari e il Chievo, a vedere se veramente questo allenatore vale. Per me è stato un allenatore, Mourinho, qui in Italia, paragonabile tipo a Beckham nel calcio, giocatore molto bravo ma super pagato. Mourinho, per il mio punto di vista, bravo allenatore, per amor di Dio, sono due cose diverse, sono anche due persone diverse, perché Beckham è una persona di grande educazione e di grande rispetto sia dei colleghi che degli avversari. Non mi pare che di Mourinho si possa dire altrettanto. Claudio da Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sì. Io volevo intervenire su Milito, nel senso che noi da Giovanni ce lo ricordiamo in Serie B ed era già di livello, per la Serie B era già un lusso. Ma poi negli anni, io al contrario di quello che diceva Tavelli prima, l'abbiamo visto proprio migliorare a vista d'occhio. Sì. Ma è vero che quest'anno soprattutto, oltre a una valanga di gol che ci ricordiamo tutti, ha fatto anche tantissimi assi. Come no. E ha giocato con una, e ha giocato Claudio con una padronanza, la ringrazio di questo arricchimento, ha giocato con una padronanza e una sicurezza finale, non sprecando un pallone praticamente in tutte le ultime partite, ma non sprecando un pallone vuol dire giocandolo nella maniera perfetta, facendo sempre la scelta giusta di rallentare piuttosto che di accelerare. Veramente un finale di stagione pazzesco di questo giocatore. C'era Filippo Aureggi in regia, c'erano Franco Suardi e Franco Piantanida in redazione. Ci risentiamo tra qualche giorno per il Mondiale. Buon pomeriggio a tutti.